Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Il video del presunto attentatore di Times Square a New York, dubbi invece sulla rivendicazione dei talebani pakistani. Al via la fusione United Airlines e Continental, nasce il numero uno mondiale del trasporto aereo. La Grecia si prepara allo sciopero, il premier Papandreou ringrazia Berlusconi per l'impegno nel piano di salvataggio. Lazio-Inter, l'ora delle polemiche, Rosella Sensi, è una vergogna vincere così. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano le indagini per il fallito attentato di sabato in Times Square a New York, una città che celebra gli ambulanti che hanno dato l'allarme bomba. Oggi le telecamere trasmettono a ciclo continuo i 20 secondi di video ripresi da una telecamera di sorveglianza in Times Square. C'è un uomo che si allontana dall'auto imbottita di esplosivo, si ferma, si sfila dei vestiti e li mette in una busta. La rivendicazione dei talebani pakistani di Tehrik e Taliban non convince e si indaga anche sulla pista South Park. L'autobomba, infatti, era davanti alla sede di Viacom, che produce il dissacrante cartone già minacciato dai fondamentalisti islamici. Più credibili sembrano i video dei talebani pakistani di Hakimullah Meshud, ma risalirebbero al 4 e 19 aprile e minacciano genericamente attentati in America. Il collegamento con Times Square, quindi, è tutto da provare. Intanto si celebrano gli eroi del giorno, i due venditori ambulanti, entrambi veterani del Vietnam, Dwayne Jackson e Lance Orton. Insospettiti dall'auto in sosta con il motore acceso, hanno dato l'allarme. Uno sorride ai cronisti, l'altro li allontana zoppicando. A guardarli, la vita è un film. Laura Bettini, GR24, il sole 24 ore. Altro paese, altri attentati. È arrivato il verdetto per l'unico terrorista sopravvissuto all'attentato di Mumbai del novembre 2008. Colpevole di tutte 86 le imputazioni contestategli, compresa quella di omicidio e quella di aver compiuto un atto di guerra contro l'India. Lo ha stabilito oggi un tribunale di Mumbai, Mohammad Ajmal Kasab, l'unico membro sopravvissuto del comando che nel novembre del 2008 mise in ginocchio Mumbai, non avrà scampo. Quando martedì verrà completata la lettura della sentenza, non potrà che essere condannato a morte o all'ergastolo. Si è chiuso così il primo capitolo giudiziario della vicenda che un anno e mezzo fa ha trasformato la capitale finanziaria dell'India in un campo di battaglia e fatto naufragare il processo di pace tra India e Pakistan. Nel corso di quella carneficina, durata 2 giorni e 3 notti, persero la vita 174 persone, indiani e stranieri, poveri in transito da una affollata stazione ferroviaria e ricchi uomini d'affari di passaggio negli hotel più lussuosi della città. Ma venire ferita e umiliata fu l'anima stessa di Mumbai, la città più popolosa, caotica e cosmopolita dell'India, messa di fronte una volta di più alla propria fragilità e alla inadeguatezza delle proprie forze di sicurezza. Marco Masciaga, GR24, Sole 24 Ore, New Delhi. Dal delta del Mississippi alla Florida occidentale, pesca vietata, lo hanno deciso le autorità federali a causa dell'enorme sversamento di greggio nelle acque del Golfo del Messico, a causa, come sapete, dell'incidente del 20 aprile scorso in una piattaforma petrolifera. Il disastro, dice la British Petroleum, che gestiva l'impianto, non potrà venire arginato prima di una settimana. Siamo preparati al peggio, dice il presidente degli Stati Uniti Obama. Gli americani, e in particolare chi vive nella zona del Golfo del Messico, ora sanno certamente che abbiamo a che fare con un disastro ambientale enorme e potenzialmente senza precedenti. Il greggio, che ancora fuoriesce dal pozzo, può seriamente danneggiare l'economia e l'ambiente degli stati del Golfo. Voglio che sia chiaro, fin dal primo giorno ci siamo attrezzati per affrontare il peggio. Ci siamo preparati e abbiamo reagito con forza. Gli uomini e le donne che sono qui non saranno soddisfatti finché la perdita non sarà fermata e il greggio non sarà raccolto e ripulito e la gente potrà tornare alla sua vita e al suo lavoro. Ma quali sono le specie a rischio? Sentiamo in questa scheda. Le ricadute della marea nera sugli ecosistemi del Golfo del Messico sono peggiori di quel che si ipotizzava solo alcuni giorni fa. Tutte le specie che vivono all'interno del golfo, infatti, soffriranno chi più chi meno del passaggio della grande macchia di greggio. Tra tutte, comunque, alcune sono estremamente minacciate, come il tonno rosso, una specie già in pericolo di estinzione, il quale tra poche settimane deporrà le uova nel Golfo del Messico. Ci sono diverse specie di squali, poi, che hanno, in un'area molto vicina a quella dell'incidente, il luogo dove danno alla luce i propri piccoli. E poi ci sono almeno 4 specie di tartarughe marine che in questo periodo hanno nel Golfo un'area di passaggio della loro migrazione estiva. Ma l'elenco delle specie a rischio non si ferma qui. Ci sono i pellicani marroni, simbolo della Louisiana, le ostriche, i granchi e i gamberetti che in questo periodo sono da poco nati e dunque in una situazione estremamente precaria. E poi c'è il rischio che una grande quantità di uccelli che passano dalla Louisiana durante le migrazioni finiscano inconsciamente nella mortale trappola del greggio arrivato sulle coste. Luigi Bignami, GR24, Il Sole 24 Ore. Accordo fatto per la fusione fra United Airlines e Continental Airlines. La fusione darà vita alla più grande compagnia aerea del mondo per traffico passeggeri. Secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg, la società che detiene United Airlines e Continental prevedono che dalla fusione deriveranno sinergie per oltre $1 miliardi entro il 2013, compreso un aumento di ricavi annui fra gli 800 e i $900 milioni. Ed ora in Grecia, all'indomani del via libera al piano di salvataggio della Grecia, il premier Papandreou ha telefonato al presidente del Consiglio Berlusconi per ringraziarlo, ricordando che l'Italia è stata la prima in Europa a sostenere un intervento in favore del suo paese. Intanto la Grecia non avrà bisogno di altri aiuti. Secondo il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il piano di salvataggio della Grecia, dice Schäuble, rappresenta la decisione migliore che si potesse prendere per garantire la stabilità dell'euro. Ma sentiamo gli umori da Atene con Vittorio D'Arold. Buongiorno Vittorio. Sì, buongiorno. Qui allora, gli umori sono piuttosto difficili, perché la gente si sta rendendo conto di cosa vuol dire questi sacrifici, questi tagli ai salari, soprattutto dei dipendenti pubblici. Si parla del 20, forse 30% in alcuni casi, tagli anche alle pensioni. E così oggi sono cominciate le prime manifestazioni, hanno cominciato i dipendenti degli enti locali che sono in sciopero e quelli degli spazzini di Atene. Domani tocca agli insegnanti e poi appunto ci sarà probabilmente anche gli infermieri, dopo un acceso dibattito nella segreteria della Dedi, il sindacato dei dipendenti pubblici. Abbiamo parlato con il presidente della Dedi, Spiros Paraspiros, che ha detto: attenzione, noi siamo responsabili, ma tagli così forti sono insostenibili. E dice il segretario: questo è solo l'inizio, è la fine del sogno europeo per la Grecia, nel sogno europeo inteso come diritti dei lavoratori, appunto, di una crescita che si pensava continua, e invece qui da quest'anno appunto si è arrestata. Nelle tasche dei salari ci saranno delle diminuzioni. Grazie a Vittorio D'Arold da Atene. Siamo invece alla politica italiana, a cominciare dall'inchiesta sui grandi appalti per il G8 in cui è inciampato il ministro Scajola. Potrebbe essere interrogato in settimana a Perugia il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Nei suoi confronti non ci sono accuse e sarà dunque sentito solo come persona informata dei fatti dai PM titolari dell'inchiesta sugli appalti per i grandi eventi. Nonostante le diverse testimonianze raccolte dall'accusa, il ministro continua a negare di aver ricevuto i €900.000 sotto forma di assegni circolari da parte del costruttore Diego Anemone, uno dei principali indagati, soldi che sarebbero serviti ad acquistare un appartamento a pochi passi dal Colosseo, dichiarando fra l'altro al fisco un valore più basso di quello reale. Anche i legali di Anemone oggi sostengono che gli addebiti rivolti al loro assistito sono pura fantasia. Intanto, mentre sul fronte politico sono in molti dall'opposizione a chiedere le dimissioni di Scajola, a negare ogni responsabilità nella vicenda è anche Pietro Lunardi. L'ex ministro ha ammesso di aver avuto rapporti con gli indagati, ma solo per motivi di lavoro, e nega invece di essere stato aiutato dalla cricca per la vendita di un appartamento di suo figlio, un'operazione immobiliare ritenuta sospetta dagli inquirenti. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed ora le dichiarazioni di giornata del presidente della Camera Fini, in diretta da Roma, Vincenzo Miglietti. Sì, buongiorno. Interviene di nuovo nel dibattito politico il Presidente della Camera. Lo fa in modo indiretto, invitando tutti a guardare al futuro, ad una classe dirigente che sappia lasciare da parte il contingente e gli interessi del momento per un lavoro in favore delle nuove generazioni. Oggi viviamo un inno al presentismo, spiega Fini, non solo in Italia o in Europa, ma nell'intero Occidente, dove soffriamo di uno schiacciamento sull'immediato, con la cultura del sondaggio diventata l'unica strategia. Aprendo i lavori di un seminario di Fare Futuro, l'ex leader di AN punta il dito sulla politica del market to market, sottolineando che per uscire da questa situazione serve una cultura rinnovata e strategica, capace di pensare alle ricadute di ogni politica sulla vita e sul futuro di ogni cittadino. Negli ultimi 15 anni, dice ancora Fini, il mondo è profondamente cambiato e la politica, a destra come a sinistra, non ha compiuto alcuno sforzo per modificare il proprio linguaggio, cercando un consenso di breve periodo ed abdicando così ad una visione di prospettiva. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Queste invece le polemiche sui festeggiamenti per il 150° dell'Unità d'Italia dopo le dichiarazioni del ministro Calderoli. L'Italia unita continua a dividere anche 150 anni dopo. A innescare la polemica le parole ieri del ministro Calderoli, pronto a prendere le distanze dalla prima cerimonia in grande stile mercoledì a Quarto. Lui e i suoi colleghi della Lega, ha detto, diserteranno la cerimonia. E se non stupisce la presa di posizione del PD e dell'Italia dei Valori, pronte a scagliarsi contro le parole di Calderoli, le precisazioni arrivano anche dall'interno della maggioranza. Nessuna dissociazione, dice il collega di governo e titolare dei beni culturali Sandro Bondi. Calderoli ha sostenuto che il modo migliore di ricordare l'Unità d'Italia è quello di realizzare il federalismo. E da ex DN, Ignazio La Russa ironizza: sono lieto che la Lega voglia marcare una differenza, così la si smette di dire che siamo a rimorchio. A intervenire anche il senatore a vita Giulio Andreotti: Calderoli sbaglia, taglia corto, mi pare che celebrare solennemente l'Unità sia un dovere e non un'opzione facoltativa. Ma ancor più che a Quarto, la vera partenza che Calderoli attende è domani in bicamerale, quando all'esame ci sarà il primo decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale. Una provocazione che, se fa discutere, non sfugge ai suoi. In molti dei luoghi delle grandi battaglie risorgimentali, oggi ci sono amministrazioni comunali grandi e piccole a guida leghista. Una di queste è Somma Campania, dove, nell'ossario di Custozza, sono conservati i resti dei grandi martiri del risorgimento. Il sindaco è un leghista doc, Gianluigi Soardi. Credo che la risposta di Calderoli sia naturalmente fine a se stessa. Uno dei suoi soliti modi per forzare la mano e dire: ok, noi andiamo se viene riconosciuto, si va avanti con questo federalismo che si chiede ormai da troppo tempo. No, non voglio andare a unire le due cose, cioè quello che è l'affermazione che ha fatto Calderoli con quello che è il passato storico e quello che è il bagaglio di culturale collegato anche al fattore storico, che naturalmente è ricco il nostro territorio. Sono due cose per me da tenere distinte. Anna Migliorati, GR24, Il Sole 24 Ore. Chi si è visto ritirare la patente può ottenere una deroga per guidare 3 ore al giorno. Siete d'accordo? Il nostro sondaggio di oggi. I maligni l'hanno ribattezzato emendamento Grappino. È quello che 3 senatori della Lega hanno presentato alla legge sulla revisione del codice della strada in discussione al Senato e che prevede questo. Ti è stata ritirata la patente? Puoi chiedere al prefetto una deroga di 3 ore al giorno per motivi di lavoro. Il primo firmatario, il senatore Vallardi, spiega. A una persona, come succede oggi, gli viene ritirata la patente perché magari ha appena bevuto uno spritz e lo fermano subito fuori dal bar, può succedere, è giusto che sia così. E a questa persona viene ritirata la patente per 2 anni perché magari ha un grado alcolico allo 0,6, è la prima volta che gli succede in vita sua, non possiamo rovinare questa persona. Ma secondo voi è giusta questa deroga temporanea? Ve lo chiedevamo oggi nel nostro sondaggio, oltre 4.000 le risposte arrivate, vi siete divisi esattamente a metà, 50 e 50. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare, radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dell'attentato fallito per fortuna di sabato a New York. Spunta il video del presunto attentatore di Times Square, dubbi invece sulla rivendicazione dei talebani pakistani. Al via la fusione United Airlines e Continental, nasce il numero uno mondiale del trasporto aereo. Poi abbiamo fatto il punto sulla Grecia, scioperi infatti in Grecia contro il duro piano di risanamento annunciato dal governo. Intanto i ministri della zona euro avallano gli interventi a sostegno del governo di Atene. E ripartiamo dalla cronaca italiana. Udienza preliminare a Pordenone per l'omicidio di Sanaa, la 18enne marocchina uccisa dal padre. ha deciso di non costituirsi parte civile la madre di Sanaa, la 18enne marocchina sgozzata dal padre perché frequentava un italiano. Per la prima volta invece lo ha fatto un ministro, quello delle pari opportunità Mara Carfagna, nel corso dell'udienza preliminare a Pordenone per l'omicidio della 18enne. Ciascuno ha spiegato la Carfagna in Italia deve avere il diritto di professare la propria fede come crede, ma il paese può accettarlo solo se questa è rispettosa dei diritti umani, compresi quelli delle donne e delle leggi dello Stato. Sanaa aveva cercato di ribellarsi al modello di vita impostole dal padre marocchino in Italia da anni come cuoco. Era andata a vivere con il fidanzato italiano. Alla famiglia però aveva detto di stare da un'amica. Il padre l'aveva più volte minacciata, fino a quando il 15 settembre l'aveva poi aggredita insieme al fidanzato, uccidendo lei a coltellate e ferendo il giovane Massimo De Biasio, che aveva tentato di difendere la fidanzata. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Attesa per il discorso che il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad pronuncerà oggi a New York alla conferenza sul trattato di non proliferazione nucleare. Sentiamo Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Ahmadinejad è un uomo minuto, intorno al 1,60 m, quasi insignificante. Eppure è il presidente che ha annunciato al mondo, nel febbraio scorso, che l'Iran è diventato uno stato nucleare. Ha fatto ciò che non aveva usato il carismatico Ayatollah Khomeini e neppure il potente Shah Reza Pahlavi. Nel suo discorso a New York per il vertice sul trattato di non proliferazione, oggi proverà a convincere che il suo regime è in buona fede e sono gli altri che sbagliano ritenendo che l'Iran voglia dotarsi dell'atomica. Ma per Ahmadinejad non è così fondamentale impedire un nuovo round di sanzioni e neppure diminuire la tensione internazionale. L'obiettivo è quello di apparire come un leader forte, capace di fronteggiare la platea mondiale. Il nucleare gli serve, soprattutto, per trasferire all'esterno le tensioni interne che agitano il paese ed esercitare un ruolo da superpotenza regionale. Con un berretto invece del tradizionale velo, così le ragazze della nazionale di calcio iraniana potranno partecipare ai giochi estivi giovanili in programma d'agosto a Singapore. È il risultato del compromesso fra Federcalcio iraniana e FIFA, che dal 2007 vieta di andare in campo con riferimenti politici e religiosi. Scatta oggi a Roma il raduno azzurro voluto dal CTLIP in vista dei mondiali di Sudafrica 2010, 29 convocati con parecchi indizi che fanno già intuire quale sarà la rosa dell'Italia ai mondiali che scattano l'11 giugno. Per ora i nomi che contano sono quelli degli assenti, perché dal gruppone dei 29 riuniti in stage alla Borghesiana mancano interisti e, soprattutto, passaporto alla mano, romanisti, impegnati mercoledì nella finale di Coppa Italia, e perché alla fine a salire sull'aereo per Johannesburg saranno solo in 23. Per cui essere nel listone ora non è una garanzia, non esserci suona come una bocciatura definitiva. E allora addio sogni mondiali per Amauri, reduce dall'annata buia della Juventus, non riscattata dalla acquisita nazionalità italiana, e Fabrizio Miccoli, che proverà a consolarsi agguantando la Champions con il suo Palermo. Cerco di fare il massimo per me, per il Palermo, però penso che sarà difficile nazionale. Comunque per me non c'è nessun problema. Per il resto Lippi è coerente con se stesso, spazio ai fedelissimi e al blocco Juve, per cui in Sudafrica sicuri Gattuso e Camoranesi, mentre in attacco sarà sprint per una maglia tra il rossonero Borriello e il doriano Pazzini. Quotazioni in calo per Toni e Totti, anche se il capitano giallorosso resterà in corsa fino all'11 maggio, quando il CT dovrà consegnare la lista dei 30 da cui scegliere poi la rosa mondiale. Dario Ricci, GR24, Le Sole 24 Ore. E torneremo a parlarne dopo questo GR24. Va in onda infatti la prima puntata di Passione Africana, il progetto di Radio 24 in avvicinamento ai mondiali di calcio. Queste invece le polemiche sul campionato. Dopo la vittoria contro la Lazio, il sorpasso sulla Roma, l'Inter in testa alla classifica è al centro delle polemiche. La presidente della Roma, Rosella Sensi, accusa: al posto dell'Inter mi sarei vergognata di vincere in quel modo. La Sensi si riferiva al fatto che la Lazio non avrebbe giocato per vincere, di fatto favorendo l'Inter rispetto alla Roma nella corsa a scudetto. No comment da parte del presidente nerazzurro Massimo Moratti, che però dice: è un problema fra Roma e Lazio che non riguarda l'Inter. Parliamo di scuola. Conto alla rovescia per la riforma delle superiori che entrerà in vigore fra alcuni mesi, ma i problemi organizzativi, come riporta oggi il Sole 24 Ore, non mancano. Meno classi ma più affollate, ma anche meno tempo da passare sui banchi. Sono queste le uniche certezze dei presidi alle prese con il rompicapo della riforma delle superiori che partirà a settembre. Archiviata la partita delle iscrizioni, ora la palla passa nel campo dei dirigenti. Solo 5 mesi di tempo per incastrare tutti i tasselli mancanti, in attesa di chiare indicazioni da parte del Ministero. L'agenda è fitta, bisogna definire nuovi programmi sulla base della riduzione dell'orario, scegliere libri di testo e distribuire le cattedre, garantendo la qualità dell'insegnamento. E proprio la riduzione dell'orario mette a rischio i laboratori e le sperimentazioni della seconda lingua straniera. Una carta da giocare è il margine di flessibilità della gestione da parte dei programmi che la riforma concede alle scuole. Anche su questo punto, però, si attendono chiare indicazioni da parte del Ministero. Francesca Barbieri, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.